giornale radio del Friuli Venezia Giulia. Due morti nella notte sull'autostrada A4, un ragazzo e un quarantenne di origine romene si erano fermati sulla corsia di emergenza dopo aver urtato il guardrail. Scesi dal furgone, sono stati travolti da un altro furgone. Dal 31 dicembre è cessato a Trieste il servizio della guardia medica diurna, che spesso faceva le veci dei medici di base che mancano. La regione stanzia 130.000 euro per l'inclusione lavorativa dei disabili, la misura presentata oggi in un incontro promosso dal consigliere Grilli della lista Fedriga e della Consulta dei disabili. Il conflitto tra Hamas e Israele nell'incontro sul dialogo interreligioso tra il rabbino e il vescovo di Trieste. Si parte da un passo del libro di Ezechiele, ma l'attualità prende inevitabilmente il sopravvento. Tanti giovani medici partono ogni anno anche da questa regione alla volta dell'Africa col QAM, la più antica associazione benefica italiana. Oggi all'auditorium di San Vito al Tagliamento un incontro dedicato a loro. Bel tempo e temperature ancora basse nel weekend, ma non nel mare, che rispetto agli anni scorsi continua ad essere al di sopra delle medie stagionali. Derby di basket per la Serie A2 questa sera alle 21. Udine e Trieste si affrontano in un Palacarnera tutto esaurito. Telecronaca diretta su Rai Play. Le 12.31, ancora buongiorno da Alessandra Zigaini e Lorenzo Gerlinzoni. In apertura ancora l'ennesimo incidente della strada con due morti e due persone finite sotto shock, è accaduto dopo mezzanotte, la cronaca in questo servizio. Due morti e due feriti è il bilancio dell'incidente avvenuto poco dopo la mezzanotte sull'autostrada 4 nel tratto tra il nodo di Palmanova e San Giorgio di Nogaro in direzione Venezia. A essere coinvolti due furgoni. L'impatto è avvenuto poco dopo la confluenza della 23 con la 4, dove ci sono quattro corsie, e prima dell'area di servizio di Gonars. Da una prima ricostruzione, il primo furgone con un carrello dietro con targa romena è andato a sbattere autonomamente contro il guardrail centrale ed è poi finito al centro della carreggiata tra la corsia di marcia e quella di emergenza. Il mezzo si è fermato in corsia di emergenza. Due uomini di nazionalità romena, Constantin Alexoae di 43 anni e Andrei Robert Balan di 18 anni, residente a Torino, avrebbero accostato per verificare i danni. Una volta scesi dal mezzo sono stati travolti da un altro furgone e hanno perso la vita. Secondo le prime ricostruzioni, la vittima più giovane sarebbe stata sbalzata di parecchi metri dalla violenza dell'impatto. Sul posto la polizia stradale, i vigili del fuoco, il 118, il personale di autostrade Alto Adriatico e i mezzi di soccorso. I sanitari giunti sul posto hanno fatto il possibile per le due persone più gravi, ma non c'è stato nulla da fare se non decretare il decesso. Trasportata sotto shock in ospedale la donna che si trovava nel furgone delle due vittime e viaggiava a fianco del guidatore. Anche l'uomo al volante del veicolo, un cittadino rumeno che ha investito i due uomini, è stato ricoverato per accertamenti. Le operazioni si sono concluse intorno alle 4, non si sono registrate ripercussioni al traffico. San Giorgio di Nogaro, Giovanni Tormina, TGR Friuli Venezia Giulia. A Trieste, a complicare i disagi dovuti alla mancanza di medici di base, si è aggiunta da qualche giorno la cessazione dell'attività della guardia medica diurna, attiva da un anno all'ospedale maggiore, che per molti sostituiva la mancanza del medico. Era stato istituito un anno fa per alleggerire il carico di lavoro di pronto soccorso ai medici di famiglia, alle prese con i numerosi pensionamenti. Esattamente 12 mesi dopo, con la fine del 2023, ha chiuso i battenti a Trieste il SISAP, il Servizio Integrativo Sperimentale di Assistenza Primaria, una sorta di guardia medica diurna che dava risposta soprattutto ai cittadini privi di medici di base e ai molti non residenti che vivono a Trieste per motivi di studio o di lavoro. Il SISAP è stato chiuso, fa sapere la direzione di Asugi, perché le richieste non ne giustificavano l'apertura. A Trieste è entrato in servizio un nuovo medico a gennaio, altri due lo faranno, previa accettazione entro fine mese. Sono inoltre programmati ulteriori medici di medicina generale, di cui daremo comunicazione alla cittadinanza per tempo. L'innalzamento del massimale su base volontaria fino a 1.800 assistiti ha consentito a Trieste di non avere grandi numeri di pazienti scoperti, come invece accaduto nell'Isontino e in altre zone del Friuli Venezia Giulia, dove si è invece provveduto a dare una risposta temporanea con l'istituzione delle ASAP. A chi oggi accede al fascicolo sanitario personale per verificare la possibilità di scegliere un nuovo medico di medicina generale nel comune di Trieste, vengono forniti una quindicina di nominativi, anche se non è disponibile il numero di posti per ciascun medico. E si tratta inoltre di numeri che variano di giorno in giorno. La chiusura di quella che era in sostanza una guardia medica diurna ha inoltre lasciato senza risposta un'ampia fascia di persone, rappresentata da studenti e lavoratori residenti altrove, che facevano riferimento al SISAP per ricette e certificazioni. Trieste, Lara Zani, TGR Friuli Venezia Giulia. La situazione del meteo, il cielo è sereno sulla regione, queste le temperature registrate alle 11, a Trieste 7 gradi, Gorizia 6, Udine 6,5, Pordenone 5,5, Piancavallo 2, Tolmezzo 3, Forni di Sopra 4, Tarvisio meno 1,5, Monte Zoncolan 0 gradi, Monte Lussari meno 3, Grado 8, Lignano 7. Ma sentiamo da Livio Stefanuto dell'ARPA Friuli Venezia Giulia cosa ci attende sul fronte del meteo in questo weekend. Il tempo è a doppia fascia questo fine settimana, domani sarà una bella giornata, cielo ovunque sereno per l'arrivo di correnti secche da nord-ovest su tutta la regione e soltanto verso sera potrebbe esserci un aumento della nuvolosità sulla bassa pianura e sulla costa. Temperature minime ancora piuttosto basse di notte e domani mattina con valori ampiamente sotto zero in montagna e anche in pianura di poco sopra lo zero invece sulla costa, massime attorno ai 7-8 gradi. Domenica invece arriva la nuvolosità nei bassi strati, specialmente sulla bassa pianura e costa, il cielo sarà coperto Trieste, Carso, Gorizia fino alle valli Altisone e anche sulla bassa pianura udinese, variabili invece sul resto della pianura. In montagna invece bel tempo in quota, dove il cielo rimarrà prevalentemente sereno, poco nuvoloso per il passaggio di qualche leggera velatura e soltanto verso sera anche sulla fascia prealpina potrebbero arrivare delle nubi basse. Temperature minime ancora invernali tra i meno 3 e più 1 in pianura, temperature massime attorno ai 7-8 gradi. Anche per lunedì avremo probabilmente un cielo variabile o nuvoloso su bassa pianura e costa, in particolare sulla fascia orientale. Domenica addirittura potrebbe anche esserci qualche piovigine sul Carso e sul Triestino tra domenica pomeriggio e lunedì mattina. Invece il cielo in genere è poco nuvoloso sul resto della regione. Il mare continua a essere decisamente caldo anche in questi primi 10 giorni di gennaio, con un confronto con gli anni precedenti vediamo che abbiamo una temperatura di 3 gradi più alta rispetto alla media, con una conferma a questa tendenza al riscaldamento degli ultimi 10-15 anni. Si abbassa di molto l'età media degli assuntori di droga, il quadro delle tossicodipendenze in Friuli Venezia Giulia. Un quarto dei 9.000 corregionali in carico oggi ai servizi dipendenze delle aziende sanitarie ha meno di 30 anni. 10 anni fa erano meno del 10%. Il 6% di tutti questi sono minori, 10 anni fa erano meno dell'1%. Si tratta dell'unico dato in crescita negli ultimi anni, spiega Alberto Peressini, direttore dell'area dipendenze Alto Friuli per ASUFC, in un quadro sostanzialmente stabile. Di queste 9.000 persone, 4.000 sono assistite per problemi legati alle droghe, 3.500 per alcol. Tutti gli under 30 hanno forme di politossicodipendenza, spiega Peressini. Molti di loro sono seguiti assieme al centro di salute mentale e si sta studiando il rapporto tra patologie del neurosviluppo come autismo e ADHD e l'insorgenza conseguente di dipendenze. Indaghiamo anche il rapporto con i traumi, soprattutto infantili, aggiunge. Studi recenti indicano inoltre che il tabagismo precoce possa fare da porta d'ingresso agli stupefacenti. In aumento le psicosi da cannabinoidi anche in regione, per via di principi attivi più potenti che in passato. A Udine incontriamo Lucio Tonelli, presidente dell'associazione di genitori ANGLAD, una cinquantina di soci i cui figli hanno avuto problemi di tossicodipendenza. Si riuniscono il martedì sera per aiutarsi a vicenda e iniziare un percorso che porti all'affidamento a 3 comunità terapeutiche, una di queste San Patrignano. 8 anni fa, quando è nata l'associazione, racconta Tonelli, chi abusava di sostanze aveva in media 35 anni. Oggi arrivano ragazzi di 15-16 anni. Nel 2016 mandavamo in comunità un paio di ragazzi l'anno, oggi una al mese, 12 all'anno. Una metà però di coloro che si rivolgono a noi, l'altra metà sparisce dai radar. L'avvocato Massimiliano Basevi, che segue ANGLAD, suggerisce ai genitori di ragazzi minorenni di rivolgersi subito ai servizi sociali, che funzionano, e di denunciare subito invece quelli maggiorenni, soprattutto in caso di comportamenti in famiglia minacciosi, violenti o in caso di furti, di modo da anticipare i tempi di un percorso che prima o poi si dovrà affrontare. Oggi più di un terzo dei detenuti in carcere a problemi di tossicodipendenza. Anche alla luce di questo, i giudici, conclude Basevi, vedono sempre più con favore l'istituto dell'affidamento alle comunità terapeutiche. Gemona del Friuli, Lillo Montalto Monella, TGR Friuli Venezia Giulia. Il consigliere regionale Carlo Grilli della lista Fedriga presidente, insieme a Maurizio Pessato, vicepresidente regionale, e Marco Tortul, presidente territoriale di Trieste della Consulta regionale disabili FVG, ha convocato oggi una conferenza stampa dedicata ai fondi per la formazione delle persone con disabilità. Nella manovra da oltre 5 miliardi di euro approvata a fine dicembre c'è spazio anche per un aiuto alla formazione delle persone con disabilità. Un emendamento a firma del consigliere della lista Fedriga presidente, a lungo assessore sociale a Trieste, Carlo Grilli, assegna 100.000 euro per l'acquisto di attrezzature, strumenti informatici e mezzi di trasporto per le cooperative sociali impegnate proprio nel favorire l'inclusione lavorativa dei disabili. Abbiamo voluto promuovere il tema del lavoro, che per una persona con disabilità è un elemento essenziale, lo è per tutti, ma per una persona con disabilità ricopre varie sfaccettature della propria vita. Con un altro emendamento sono stati assegnati 30.000 euro direttamente alla cooperativa sociale Trieste Integrazione per adeguare l'impianto di riscaldamento. Dall'ente ammettono che l'inclusione lavorativa dei disabili, in particolare di quelli intellettivi, rimane molto complessa. La coordinatrice Annalisa Zovatto. Anche l'azienda deve essere preparata, anche l'azienda deve avere questa intelligenza di affidarsi, formarsi per riuscire ad essere poi accogliente. E lo si può fare, assolutamente, noi siamo convinti di questo. Antonio Di Bartolomeo, TGR Friuli Venezia Giulia. In Consiglio Comunale a Trieste, illustrata la prima variazione di bilancio. Sentiamo. Ammonta a circa 60 milioni di euro la prima variazione di bilancio del 2024 varata dalla Giunta Comunale di Trieste. Si tratta di una parte dell'attivo del bilancio per il 2023, ovvero di soldi non spesi l'anno scorso o frutto di entrate maturate nelle ultime settimane dell'anno, che per ragioni burocratiche legate alla norma sulla contabilità degli enti pubblici, in assenza di una variazione di bilancio, sarebbero stati disponibili solo a partire da maggio. Da qui dunque la necessità della delibera, ha detto l'assessore al bilancio del Comune di Trieste, Bertoli, spiegando che questi fondi serviranno a coprire per una somma di 5 milioni gli adeguamenti contrattuali del personale e poi a pagare fornitori e imprese appaltanti del comune e a permettere l'avvio o il completamento di lavori pubblici già iniziati o da iniziare. Tra essi, la cabinovia fra la città e il Carso, a cui questa variazione destina 16 milioni e mezzo sui 62 complessivamente previsti per l'opera. Il parco lineare previsto nell'area del Porto Vecchio, a cui vanno 11 milioni e 200 mila euro, l'adeguamento antincendio dell'asilo Semi di Mela di San Vito, finanziato con poco più di un milione, e poi ancora 777.000 euro per la bonifica del terrapieno di Barcola, 200.000 per la manutenzione dei mercati cittadini, 100.000 per la messa in sicurezza della strada di salita di Contovello. Trieste, Daniele Lettig, TGR, Friuli Venezia Giulia. È stato un incontro all'insegna del dialogo interreligioso, quello di ieri pomeriggio al centro pastorale Paolo VI di Trieste, tra il rabbino capo di Trieste Alessandro Meloni e Monsignor Enrico Trevisi, che regge la cattedra di San Giusto. Il dialogo, che era partito da un passo biblico tratto dal libro di Ezechiele, si è ben presto spostato su una valutazione da parte dei due religiosi di quanto sta accadendo in Israele e nella striscia di Gaza. Sentiamo. Ritrovare lo spazio del dialogo tra cattolici ed ebrei proprio nel momento in cui la Terra Santa vive i suoi giorni di maggior orrore, dai raid di Hamas del 7 ottobre alle distruzioni e alle vittime che si piangono ogni giorno a Gaza. Inevitabile che l'eco di quel che sta accadendo si riflettesse anche sull'incontro a Trieste tra il vescovo Trevisi e il rabbino capo Meloni. Una riflessione su un passo del profeta Ezechiele nell'ambito appunto di una giornata dedicata all'approfondimento dei contatti tra le due religioni. Contatti che sono a loro volta in un momento di difficoltà, anche a causa dell'uso del termine genocidio per descrivere l'azione dello Stato di Israele. Impiego forse in un modo troppo leggero di certe parole per descrivere la situazione, e questo, al nostro avviso e al mio avviso, sta risvegliando una certa forma di antisemitismo nel mondo, in modo particolare anche in Italia. Per fortuna devo dire che a Trieste questo ancora non è molto percepibile. Per il vescovo la qualità dei rapporti tra le diverse confessioni in città è comunque una ragione di speranza. Penso che questa ostinazione nell'incontrarci e nel parlarci sia un qualche cosa che può essere utile anche per altre comunità e anche per altre città. Ed è l'augurio che, nonostante il dolore di questi mesi di guerra, e nonostante quello che Israele ha subito da Hamas, nonostante quello che ancora adesso si sta soffrendo a Gaza, noi insistiamo nel volerci parlare, nel voler guardare ad un futuro che sia di giustizia e di pace per tutti. Andrea Bardanica, TGR Friuli Venezia Giulia. L'associazione In Buona Salute San Vito organizza questa sera alle 20.30 all'Auditorium Concordia di San Vito al Tagliamento un appuntamento a sostegno del QAM, la più antica associazione benefica italiana che promuove l'assistenza sanitaria nei paesi più poveri dell'Africa. Tanti giovani, soprattutto giovani medici, che partecipano ogni anno alle attività dell'associazione. Ne abbiamo parlato con Andrea Borgato, vice direttore del QAM. Siamo in 8 paesi dell'Africa subsahariana, che è l'Africa più povera, quella più in difficoltà, quella più fragile. Quindi siamo presenti in Etiopia, in Mozambico, in Angola, in Repubblica Centrafricana, in Uganda, in Tanzania, in Sud Sudan. È proprio una scelta strategica di essere presenti proprio qui, nell'ultimo miglio, laddove spesso qualcuno non vuole andare e i bisogni invece sono superiori ad altre realtà. Avete tanti ragazzi, tanti giovani. Che cosa fanno questi giovani? Sono giovani medici soprattutto, che possono quindi esercitare una parte della loro specialità, periodo di specialità che dovrebbero fare qui in Italia, lo possono esercitare all'estero grazie a specifiche convenzioni che stipuliamo con le singole università di appartenenza dove i ragazzi stanno facendo la specialità. E quindi questi 6-12 mesi possono essere prestati all'estero e di fatto fanno i medici, quello che fanno magari fatica a fare qui in Italia, cioè sono a contatto con il paziente, operano ovviamente sotto tutoraggio di un medico esperto e quindi riescono in questi mesi ad acquisire competenze, ad avere anche quelle capacità che poi possono riportare, una volta terminato anche questo periodo di all'estero, possono riportare in Italia. Il progetto è finalizzato soprattutto ai giovani medici specializzanti, anche se abbiamo aperto ad altre facoltà, tipo scienze politiche, dove ad esempio ci sono alcuni profili che possono essere aperti per giovani assistenti di progetto, oppure economisti che possono dare una mano per quanto riguarda la parte di amministrazione e di gestione dei progetti. Quanti volontari, in particolare la parte giovanile, avete al momento attivi? Ogni anno, adesso annualmente, arriviamo a regime ad inviare di questi giovani tra i 50 e i 60, le 60 unità, proprio grazie a questi accordi che riusciamo a stipulare con le singole università in Italia. E siamo allo sport, basket di A2, elettricità nell'aria per il derbissimo questa sera al Palacarnera tra l'APU Udine e la Pallacanestro Trieste, palla 2 alle ore 21. La gestione dei ritmi, ma soprattutto dei momenti negativi della partita e ovviamente delle emozioni. È il giorno di APU Pallacanestro Trieste, derby di ritorno che vale di fatto il secondo posto in classifica. Al Carnera alle 21, diretta su RaiPlay e per il secondo tempo su Rai Sport, i bianconeri cercano di mantenere l'imbattibilità casalinga e di vendicarsi della partita dell'andata. Match brutto, deciso allo scadere dal coraggio e dalla fortuna di Eli Brooks, autore del canestro da 3 allo scadere con l'aiuto del tabellone. Per la squadra di Vertemati, reduce dal brutto stop in casa della Fortitudo capolista, contano molto le percentuali al tiro dall'arco. Quando hanno superato il 30%, Udine ha sempre vinto e anche in maniera piuttosto netta. A far la differenza, più che il numero dei canestri da lontano segnati, sarà la qualità dei tiri presi. La batteria di tiratori Monaldi, Clark, Carotti e Libegovic è di altissimo livello. Per Trieste, che come i friulani ha sempre perso gli scontri diretti lontano dalle mura amiche, il gioco è senz'altro migliorato rispetto al balbettante inizio di stagione. Merito di Michele Ruzier, playmaker nato nel capoluogo, che proprio dal derby d'andata ha svoltato prendendosi la squadra in mano. Le sue accelerazioni e i suoi assist generano canestri facili, deve tuttavia evitare palle perse banali, pecca della squadra di Christian in questa prima metà di stagione. Anche Trieste tira molto da 3 punti, volumi simili a quelli dei friulani, anche se costruiti più in fretta e più difficili da difendere. Biglietti logicamente introvabili, il tutto esaurito arrivato in soli 7 minuti dall'apertura delle biglietterie online. Sui 3.300 presenti, buona la quota dei tifosi giuliani al seguito, poco meno di 500. Tra questi il presidente De Meo, arrivato appositamente dagli States con un viaggio blitz. Andrea Saule, TGR Friuli Venezia Giulia. L'Università di Trieste e la direzione strategica di ASUGI ringraziano il professor Trombetta in occasione del suo pensionamento per il lavoro svolto e i risultati ottenuti che hanno valorizzato Ateneo e azienda sanitaria a livello nazionale e internazionale. Trombetta è diventato nel 2016 direttore della clinica urologica dell'Università di Trieste e dal 2021 professore ordinario di urologia e autore e coautore di 525 pubblicazioni nel campo dell'urologia e dell'andrologia pubblicati su riviste internazionali e nazionali e affiliato alle più grandi società nazionali e internazionali di urologia e andrologia. Si celebra questa sera a Grado il ventennale dell'Università della Terza Età, città di Grado, prevista tra i vari interventi la prolusione del professor Matteo Marchesan sull'UTE e la promozione umana e culturale del territorio. Verranno proiettati due video approntati per l'occasione, uno sui 20 anni di vita dell'UTE di Grado e l'altro su Grado Insolita. Chiuderà la serata un concerto con i musicisti Luciano Cicogna e Andrea Cicogna, accompagnati dalla cantante Cinzia Borsatti, che eseguiranno brani antichi della tradizione gradese. Finisce qui questa edizione del giornale radio regionale, che è stata redatta e condotta in studio da Alessandra Zigaina e Lorenzo Gerlinzoni, in regia per la parte tecnica Eugenio Giuffrida e Viola Romanese, ha collaborato in redazione Daniela Sossi. A tutti voi grazie per averci seguito e un buon proseguimento d'ascolto. Abbiamo trasmesso TGR, giornale radio del Friuli Venezia Giulia.